D'altra parte, avete notato con quali astuzie Norpois ha sempre cominciato, sin dal 1914, i suoi articoli per i neutrali? Comincia col dichiarare che la Francia non deve certo immischiarsi nella politica dell'Italia, o della Romania, o della Bulgaria, eccetera. È a quelle potenze e ad esse soltanto che spetta decidere, in piena indipendenza e pensando esclusivamente all'interesse nazionale, se debbano uscire o meno dalla neutralità. Ma se queste prime dichiarazioni dell'articolo, ciò che una volta si sarebbe chiamato l'esordio, sono così apprezzabilmente disinteressate, il seguito lo è in genere molto meno. Tuttavia, prosegue in sostanza Norpois, è affatto evidente che a trarre un beneficio materiale dalla lotta saranno solo e soltanto le nazioni che si saranno schierate dalla parte del diritto e della giustizia. Non ci si può aspettare che gli alleati ricompensino, concedendo loro i territori, da cui si alza da secoli il lamento dei loro fratelli oppressi, i popoli i quali, seguendo la politica del minimo sforzo, non avranno messo la loro spada al servizio degli alleati. Fatto questo primo passo verso un consiglio di intervento, Norpois non si ferma più davanti a niente, non è più solo sul principio, ma sui tempi dell'intervento che impartisce consigli sempre meno velati. «Certo», proclama atteggiandosi come lui stesso direbbe a buon apostolo, «certo alla sola Italia, alla sola Romania aspetta decidere il momento opportuno, la forma in cui intervenire». Ma non possono ignorare che tergiversando oltre misura rischiano quel momento di lasciarlo passare. Già gli zoccoli della cavalleria russa fanno fremere la Germania, colta da indicibile terrore. È di piena evidenza che ai popoli che si saranno limitati a correre in aiuto alla vittoria, di cui già si scorge l'alba trionfale, non toccherà la stessa ricompensa a cui potrebbero ancora affrettandosi, eccetera. È come a teatro, quando annunciano gli ultimi posti stanno per esaurirsi, avviso ai ritardatari. Ragionamento tanto più stupido in quanto Norpois lo rifà ogni sei mesi e dice periodicamente alla Romania: è venuto per la Romania il momento di sapere se vuole o no realizzare le sue aspirazioni nazionali. Se aspetterà ancora, c'è il rischio che sia troppo tardi. Ora, in tre anni che lo dice, non solo il troppo tardi non è ancora arrivato, ma le profferte che si fanno alla Romania continuano ad aumentare. Allo stesso modo invita la Francia, eccetera, a intervenire in Grecia come potenza protettrice perché il trattato che legava la Grecia alla Serbia non è stato rispettato. Ora, in buona fede, se la Francia non fosse in guerra e non le stesse a cuore il concorso o la benevola neutralità della Grecia, le verrebbe mai in mente di intervenire come potenza protettrice? E il sentimento morale che la spinge a rivoltarsi perché la Grecia non ha rispettato i suoi impegni con la Serbia non ammutolisce istantaneamente quando si tratti di una violazione altrettanto flagrante da parte della Romania e dell'Italia, le quali, con ragione, credo come la stessa Grecia, non hanno adempiuto i loro doveri meno imperativi ed estesi di quanto non si dica di alleati della Germania. La verità è che la gente vede tutto attraverso il suo giornale. E come potrebbe fare altrimenti, dato che non conosce personalmente né gli uomini né gli avvenimenti in questione? Ai tempi dell'affare, che così bizzarramente vi appassionava, in un'epoca da cui usa dire che ci separano dei secoli, già che i filosofi della guerra ci insegnano che ogni legame col passato è reciso, mi infastidiva vedere persone della mia famiglia accordare tutta la loro stima a degli anticlericali ex comunardi, presentati dal loro giornale come anti-dreyfusisti, e spregiare un generale di buona nascita e cattolico, ma revisionista. Non mi dà meno fastidio vedere come tutti i francesi esecrino l'imperatore Francesco Giuseppe che veneravano, e con ragione. Posso dirvelo io, che l'ho conosciuto molto bene e che ho l'onore d'esserne trattato come un cugino. «Ah, non gli ho più scritto da quando c'è la guerra», aggiunse il barone, come per confessare audacemente una colpa di cui sapeva benissimo che nessuno l'avrebbe mai rimproverato. «Ah, sì, sì, il primo anno. È una volta sola, ma che volete mai?» La cosa non intacca minimamente il mio rispetto per lui, ma qui ho tanti giovani parenti che si battono nelle nostre file e so che giudicherebbero molto sconveniente da parte mia intrattenere una regolare corrispondenza con il capo d'una nazione in guerra con noi. Che volete? Mi critichi chi vuole, aggiunse, come per esporsi audacemente ai miei rimproveri. Non ho voluto che una lettera firmata a Charlieu arrivasse a Vienna in questo momento. La critica maggiore che io rivolgerei al vecchio sovrano è che un signore del suo rango, capo d'una delle casate più antiche e più illustri d'Europa, si sia fatto subornare da quel nobiluccio, molto intelligente per carità, ma in fin dei conti nient'altro che un parvenu, di Guglielmo di Hohenzollern. Non è fra le anomalie meno scioccanti di questa guerra. E poiché, quando riprendeva il punto di vista nobiliare, che per lui in fondo dominava tutto, il signor di Charlieu scivolava nel più incredibile infantilismo, mi disse, con lo stesso tono con cui mi avrebbe parlato della Marna o di Verdun, che c'erano cose fondamentali e assai curiose da cui chi avesse scritto la storia di questa guerra non avrebbe dovuto prescindere. Per esempio, mi disse, c'è in giro una tale ignoranza che nessuno ha fatto caso a una circostanza di rilievo. Il Gran Maestro dell'Ordine di Malta, che è un puro crocco, non ha smesso per questo di vivere a Roma, dove gode, in quanto Gran Maestro del nostro Ordine, del privilegio dell'extraterritorialità. «È interessante», aggiunse con l'aria di volermi dire, «vedete bene che incontrandomi non avete sprecato la serata». Lo ringraziai. E lui assunse il tono modesto di chi non s'aspetta compensi. Ma cosa vi stavo dicendo? Ah, sì, che la gente, adesso, seguendo il giornale, odia Francesco Giuseppe. Quanto al re Costantino di Grecia e allo zar di Bulgaria, il pubblico ha oscillato a varie riprese fra l'avversione e la simpatia, giacché a volta si diceva che si sarebbero messi dalla parte dell'intesa o di quelli che Brichot chiama gli imperi centrali. È come quando Brichot ci ripete ogni piè sospinto che sta per scoccare l'ora di Venizelos. Non metto in dubbio che Venizelos sia uno statista pieno di qualità, ma chi ci dice che i greci desiderino a tal punto Venizelos? Voleva, ci si dice, che la Grecia mantenesse i suoi impegni verso la Serbia. Tanto per cominciare, bisognerebbe sapere quali fossero questi impegni e se fossero più estesi di quelli che l'Italia e la Romania hanno ritenuto di poter violare. Del modo in cui la Grecia dà esecuzione ai suoi trattati e rispetta la sua Costituzione, ci preoccupiamo come certo non faremmo se non fosse nostro interesse. Non ci fosse stata la guerra. Credete che le potenze garanti avrebbero fatto la sia pur minima attenzione allo scioglimento delle Camere? Quello che vedo io è semplicemente che ritiriamo uno per uno i nostri appoggi al re di Grecia per poterlo cacciar via o imprigionare il giorno che non avrà più l'esercito a difenderlo. Vi dicevo che il pubblico giudica il re di Grecia e il re dei Bulgari unicamente sulla base dei giornali. E come potrebbero pensarla diversamente sul loro conto, dal momento che non li conoscono? Io li ho incontrati mille volte, ho conosciuto benissimo, quando era diadoco, Costantino di Grecia, che era un'assoluta meraviglia. Ho sempre pensato che l'imperatore Nicola avesse per lui un'infinita propensione. A buonissimo fine, sia ben chiaro. La principessa Christian ne parlava apertamente, ma è una tale peste. Quanto allo zar dei Bulgari, è una vera birichina, un'autentica scavezzacollo, ma intelligentissimo, un uomo di prim'ordine. Mi vuole molto bene. Il signor di Charlieu, che poteva essere così gradevole, diventava odioso quando abbordava questi argomenti. Ci metteva il tipo di compiacimento già così fastidioso in un malato che continui a vantare la sua buona salute. Ho pensato spesso che i fedeli tanto desiderosi sul tortiglione di Balbec di confessioni alle quali lui si sottraeva non sarebbero forse riusciti a sopportare questa sorta d'ostentazione d'una mania e a disagio in difficoltà di respiro come nella camera d'un malato, o davanti a un morfinomane che tirasse fuori la siringa davanti a noi, sarebbero stati loro a interrompere le confidenze cui credevano d'ambire. Senza contare il fastidio di sentir accusare tutti, e molto spesso, probabilmente senza prove di sorta, da uno che ometteva se stesso dalla speciale categoria a cui pure sapeva d'appartenere e in cui collocava così volentieri gli altri. E poi lui, così intelligente, si era fatto in proposito una piccola, angusta filosofia, alla cui base c'era forse un pizzico delle curiosità che Swan trovava nella vita, che spiegava tutto con queste cause speciali e nella quale, come ogni volta che ci si adagia in un proprio difetto, non soltanto era al di sotto di se stesso, ma straordinariamente soddisfatto di sé. Lui, così grave, così nobile, ebbe dunque il più sciocco dei sorrisi nel concludere la frase seguente. Poiché nei confronti dell'imperatore Guglielmo esistono forti presunzioni del medesimo genere che per Ferdinando di Coburgo, ecco la causa per cui lo zar Ferdinando si è messo dalla parte degli imperi predatori. Diamine! In fondo è ben comprensibile. Si è indulgenti verso una sorella, non le si rifiuta niente. Trovo che sarebbe una spiegazione graziosissima dell'alleanza fra la Bulgaria e la Germania. E di questa spiegazione stupida, e che persino se fosse stata suffragata da fatti reali, sarebbe stata puerile tanto quanto le riflessioni che egli faceva sulla guerra quando la giudicava dal punto di vista del feudatario o del cavaliere di San Giovanni di Gerusalemme, il signor di Charlus rise lungamente, come se la trovasse davvero molto ingegnosa, e concluse con un'osservazione più giusta. «La cosa sorprendente», disse, «è che il pubblico, che giudica uomini e cose della guerra soltanto sulla scorta dei giornali, è convinto di giudicarli autonomamente». In questo Charlus aveva ragione. «Mi hanno raccontato che bisognava vedere i momenti di silenzio ed esitazione di Madame de Fauchville, simili a quelli che occorrono non solo all'enunciazione, ma addirittura alla formazione di un'opinione personale». Prima che dicesse, col tono di un sentimento intimo, «No, non credo che prenderanno Varsavia. Ho l'impressione che non possa passare un secondo inverno. Quello che proprio non vorrei è una pace zoppa. A farmi paura, se volete che ve lo dica, è la camera. Sì, nonostante tutto, sono convinta che sfonderemo». E per dire queste cose, Odette prendeva un'aria maliziosa che accentuava al massimo quando diceva «Non dico che l'esercito tedesco non si batta bene, ma gli manca quel che si chiama il fegato». Per pronunciare il fegato, e anche più semplicemente per il mordente, faceva con la mano il gesto di impastare e strizzava gli occhi come gli imbrattatele quando usano un termine tecnico. Nel suo linguaggio personale c'era, peraltro, più ancora di prima, traccia della sua ammirazione per gli inglesi, che non doveva più accontentarsi di chiamare, come prima, i nostri vicini d'oltremanica, o al massimo i nostri amici inglesi, ma i nostri leali alleati. Inutile dire che non mancava di citare a ogni proposito l'espressione «fair play» per mostrare come gli inglesi giudicassero i tedeschi giocatori scorretti e «la cosa da fare è vincere la guerra, come dicono i nostri bravi alleati». Alla peggio, associava un po' maldestramente il nome di suo genero a tutto quanto riguardava i soldati inglesi e al piacere che egli ricavava dal vivere in intimità con degli australiani come pure con degli scozzesi, dei neozelandesi e dei canadesi. «Mio genero Saint-Lieu conosce ormai il gergo di tutti quei bravi Tommies, sa farsi capire da quelli dei più remoti Dominions e fraternizza con il più umile private, proprio come col comandante della base».